Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Lui aveva detto: a questo punto siamo pronti ad agire anche da soli. Lo aveva fatto presente. Le immagini delle vittime, soprattutto dei bambini sfigurati per la violenza delle armi chimiche, mi hanno toccato profondamente e hanno cambiato la mia prospettiva. E nel giro di pochi giorni Donald Trump è passato dalle parole ai fatti. E i fatti hanno il suono sordo dei 59 missili Tomahawk lanciati da due portaerei nel Mediterraneo e diretti verso la base aerea di Sharat, da cui sono partiti i jet che hanno bombardato martedì scorso la provincia di Idlib. L'attacco è partito nella notte in Siria. Negli Stati Uniti erano circa le 20:40. Il presidente americano era seduto a cena nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida con il presidente cinese Xi Jinping, un vertice preannunciato come storico, ma che adesso sarà anzitutto ricordato per la convulsa serata di ieri, la serata in cui l'America di Donald Trump ha voluto mostrare al mondo i muscoli. L'azione, precisano dal Pentagono, è l'unica. Diciamo che quello che ormai avete appreso da questa mattina presto, a tutti i notiziari possibili, comprese le edizioni speciali del giornale radio di Radio 24, è ormai un fatto che interessa gli equilibri della politica internazionale. Qui non è di questo che voglio parlare questa mattina, perché notizie nuove ci vorrà un po', aspettiamo che sorga il sole deciso negli Stati Uniti per capire quali saranno le reazioni, per vedere un po'. Al momento c'è soltanto un fatto che incide comunque nella nostra emotività nazionale, incide soprattutto su un discorso ricorrente che ho spesso registrato anche con toni veementi dal pubblico della radio, che è una campionatura fedele di quello che è il sentire nazionale, riguardo alla necessità che serva in questo preciso momento un punto riferimento rappresentabile in un uomo forte. L'uomo forte è qualcosa che si erge come una sorta di eroe mitologico a sconfiggere le forze del male che sono rappresentate dal liquame limaccioso della vecchia politica, dei potentati, di quelli che hanno messo in ginocchio l'Italia e via dicendo. Quindi punti di riferimento l'uomo forte, non è che in Italia ne avessimo tantissimi, si è andati alla ricerca di alcune figure internazionali, di portata internazionale, che rappresentassero comunque, almeno all'apparenza, l'idea del supereroe, dell'uomo forte. Diciamo, questo pensiero generale era stato sintetizzato da un'intervista fatta a Beppe Grillo. Non cito Beppe Grillo così per volontà di punzecchiamento politico. Beppe Grillo rappresenta comunque la pancia forte di tutta questa rivolta generale verso tutto ciò che è passato, ciò che è antico, ciò che è vecchio, ciò che rappresenta comunque soltanto la corruttela genetica della classe dirigente del nostro paese. Beh, in un'intervista che fece il 24 gennaio a un'importante testata, il giornale Le Dimanche, disse: la politica internazionale ha bisogno di uomini forti come appunto Donald Trump e Vladimir Putin. Su questo siamo stati tutti d'accordo. Io ho davanti a me un'immagine bellissima, sembra tratta da una miniatura medievale che rappresenta due cavalieri teutonici, questi impavidi guerrieri che andavano in due a cavallo, ma non perché avessero bisogno di promiscuità fra due uomini, perché c'era un significato simbolico dietro. L'uno rappresentava l'azione, l'altro la contemplazione. Due cavalieri teutonici a cavallo, tutti e due in sella, uno attaccato all'altro, però nella versione contemporanea, in sella questo cavallo, anzi forse probabilmente cavalcando a pelo, perché ancora più da cavaliere teutonico rotto ad ogni sofferenza, c'era Vladimir Putin e Donald Trump insieme a torso nudo, come due guerrieri che sfidano comunque nella loro compattezza fisica le mollezze del mondo che ormai ci hanno portato alla rovina. Beh, questa mattina in realtà tutti coloro che vedevano in queste due figure il punto di riferimento più fulgido dell'uomo forte devono fare una scelta. Non voglio condizionare questa scelta, ma questa mattina o state con Putin o state con Trump, perché Putin è abbastanza arrabbiato dei missili che Trump ha mandato in Siria, perché lì stanno anche i suoi aerei, lo scudo diciamo di radar della Siria è fatto dai russi, i russi stanno lì, gli aerei russi sono uguali a quelli dei siriani, e probabilmente lanciare ben 59 suppostone esplosive contro quell'obiettivo militare significa fare uno sfregio alla Russia. Quindi questa mattina torniamo indietro di quasi 30 30 anni e ci troviamo praticamente a dover fare una scelta come quella che fecero i nostri padri quando hanno scelto a che parte stare del blocco che divideva l'Europa, divisa in un blocco dell'Unione Sovietica e un blocco degli Stati Uniti. Questa mattina con chi state voi? State con Trump o state con Putin? Perché non potete più avere due riferimenti di uomini forti insieme, o uno o l'altro. Questa è la domanda che vi faccio. Al di là di quello che è accaduto e sta accadendo nella politica internazionale, penso che in ogni bar dello sport, in ogni ufficio, in ogni chiacchiera alla fermata dell'autobus, qualcuno dirà: ma questa mattina con chi stiamo? Stiamo con Putin o stiamo con Trump? Rispondetemi. 800 24 0024. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog, cronache meridiane. Nessun figlio del Signore dovrebbe mai soffrire questo orrore. Questa notte ho ordinato un attacco mirato su una base militare in Siria da dove fu lanciato l'attacco chimico. The chemical attack was launched. It is in this vital. I raid sono un vitale interesse della sicurezza nazionale statunitense per prevenire e scoraggiare l'attacco di mortali armi chimiche. Questo è il discorso di Trump che spiega perché ha lanciato i suoi missili. Naturalmente non voglio entrare nel merito perché ancora non c'era nessuna oggettiva prova che in realtà i missili avesse lanciati veramente Assad, che poi non aveva nulla da guadagnare a gassare 80 siriani in questo momento, anzi va solo da rimettere. Infatti sembrava che sembra come dire: ecco, mi tiro giù i pantaloni, tiratemi i missili, qualcosa del genere. Ma non voglio entrare in questa sorta di analisi di politica internazionale. Voglio proprio rispondere, già mi stanno rispondendo. Mi piace Trump perché incarna lo spirito di John Wayne, mi scrive una persona. Altri mi dicono: viva Putin per sempre. Ecco, noi siamo così. Questa mattina vogliamo portare a livello zero, perché tanto non è che a livelli di elaborazione molto più alti, anche la frase che aveva detto Grillo al Giornale de Dimanche. Quindi state con Putin o state con Trump? La fate questa scelta? O avete ancora, diciamo, due poster attaccati sul vostro lettino con i due eroi a cavallo a dorso nudo? No, non è più così. A questo punto dovete fare una scelta. Io velocemente, perché so che ha pochissimo tempo, ma ci tengo molto al suo parere, ascolto adesso Ilvo Diamanti. Ilvo Diamanti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sarò fedele all'impegno. 5 minuti, ti porto via, ma devono essere 5 minuti intensi. Ilvo Diamanti, editorialista di Repubblica, docente di scienze politiche all'Università di Urbino. Al tempo che uscì l'intervista a Beppe Grillo, tu hai fatto un commento anche al sondaggio che era stato fatto proprio per Repubblica, il giornale di cui sei editorialista, per Demos, che proprio cercava di capire quanto gli italiani hanno bisogno di un uomo forte. Sei convinto che stamattina qualcuno dovrà fare una scelta dentro di sé, dei punti di riferimento di uomo fortismo un pochino più mirati e un pochino più articolati? Ma per quel che riguarda l'Italia, direi che il quadro è abbastanza chiaro, cioè gli italiani 8 su 10 ormai dicono che vorrebbero un uomo forte oggi, perché il paese altrimenti è ingovernabile, ma soprattutto perché non ne hanno o non ne vedono, o quelli che vedono non li ritengono, come dire, poco forti. Agli italiani gli uomini forti piacciono soltanto quando non ci sono, e allora ne evocano la necessità, la domanda. E poi non è mai chiaro cosa significhi fino in fondo uomo forte, cioè cosa vuol dire un uomo in grado di decidere, di prendere decisioni, oppure un uomo, cioè, per capirci, un uomo autorevole o autoritario. Questa è un po' la questione. Cioè non basta un uomo di potere, uomini di potere ne abbiamo visti tanti, però certo, non sono mai stati considerati uomini forti. Ma siamo il paese che per 40 anni la prima repubblica è stata governata da logiche che oggi non sono logiche, che allora si definivano consociative, cioè l'accordo tra grandi partiti. Noi siamo il paese dei partiti. La forza era chi era bravo a fare accordi. Dei partiti di massa. Era forte e faceva belli accordi, ecco, diciamo così. Sì, il consociativismo era che tu non prendevi nessuna decisione in Parlamento se prima questa non aveva già ottenuto l'unanimità nelle commissioni. Tenete conto che la prima repubblica il 90% le leggi che contano sono state approvate all'unanimità in Parlamento, e quindi da noi gli uomini forti erano contraddittori rispetto ai partiti forti. Una forza felpata, non avevano gli stivaloni del guerriero, ma avevano delle belle pantofole felpate, quindi esercitavano il loro potere. Senza dirlo forte, diciamo. Poi cosa è successo? La seconda fase, diciamo, di uomo fortismo italiano. Berlusconi era un uomo forte? Ma. È la solita questione, cioè l'uomo forte è forte perché è forte o perché appare tale? Cioè Berlusconi, come dire, si impone in una fase nella quale i partiti perdono peso, perdono rilevanza dopo la Prima Repubblica e al posto dei partiti subentrano le persone, ma le persone per potersi affermare sostituiscono all'organizzazione la comunicazione, in particolar modo in quel momento la televisione, per cui Berlusconi appare un uomo forte e comunque ha un partito che è un partito suo, viene chiamato un partito personale e si esprime direttamente ai cittadini e comunica direttamente ai cittadini attraverso i media. Quello è una svolta sicuramente decisiva, perché poi il problema è essere forte o apparire forte, come in questo caso il problema a cui risponde. Anche perché c'è un paradosso in questo, la fine dell'uomo forte, il tallone di Achille dell'uomo forte è proprio la massima ostentazione dell'aspetto virile della forza, almeno ostentato, capito? Cade su una cosa che ogni uomo forte, del Duce si immaginava accoppiamenti selvaggi sugli scalini di Palazzo Venezia, di Berlusconi è saputo un po' quasi tutto e su questo è scemata la figura dell'uomo forte. È però anche solo per... per chiamarlo all'oggi, a quello che stiamo dicendo, lo stesso Duce ostentava la sua forza attraverso immagini volitive, il mento volitivo, profili, cioè anche in tempi in cui l'immagine poteva non apparire, le immagini delle piazze piene, dei balconi da cui si rivolgeva alla folla, era quella che ostentava la forza, intendo dire rispetto a quello che sta avvenendo oggi, e io non voglio banalizzare, come lei preferisco non mettermi a discutere di politica estera, però in un momento peraltro così critico, però è abbastanza evidente che ciò che interessa a Trump, cioè il pubblico di Trump, è in larga misura interno agli Stati Uniti e poi rispetto al mondo è un pubblico, cioè deve ostentare quello che ha esplicitamente presentato. Vabbè, è un gesto, diciamo che non voglio adesso. È un atto di forza. Sì, ma non voglio fare adesso le dietrologie che ormai sono già sin troppo consunte, ma c'è tutto, cioè la premessa. Il gas, i bambini, le vittime, una cosa terrificante. La risposta immediata, virile, decisa proprio nel momento in cui c'è un incontro con il leader cinese, quindi è un momento fatidico, importante. Certo. Lui questa mattina incontrerà la coppia di marito e moglie cinesi, forte del fatto che durante la notte ha tirato con la fionda i missili sulla Siria. Non è una cosa indifferente. Forte di questo fatto. Posso aggiungere una cosa che questa sia a che fare con la politica estera? Sì. Nel nostro dopoguerra la forza comunque delle potenze è sempre stata espressa e si è sempre a livello internazionale dimostrata attraverso un bipolarismo che è molto evidente, cioè Russia-America, America-Russia. Ma questa mattina è esattamente la stessa cosa, sembrava vecchio. Ma certo, è tornata, quello era il problema. Siamo tornati alla guerra fredda oggi. Era un problema. Per me quella è come è tornato il muro, cioè caduto il muro era difficile essere uomini forti su base globale o apparire tali. E questo oggi è tornato il muro, anche se non... ma poi fisicamente il muro di Berlino era evidentemente anche quello molto simbolico. Non è sì, che... sì, oggi diciamo è un muro... forse non tracciato in maniera così cementizia come era quello, ma è evidente che questa mattina... Si è spostato magari appunto a Medio Oriente, ma è un muro. Senti, non voglio andare oltre i 5 minuti che ti ho promesso avrei portato via. L'ultima cosa, poi velocemente, poi ti lascio ai tuoi impegni. Secondo te, come reagiranno gli italiani di pancia, quelli che hanno pensato che veramente avevano il poster con Putin e Trump a torso nudo a cavallo insieme, pensando che lì era il punto di riferimento? Chi sceglieranno? Questo sarà interessante, perché oggi come oggi gli italiani, meno quello che emerge dall'indagine sull'opinione pubblica, non amano nessuno dei due. Vorrei dire però, per spostare, non per non rispondere, ma per spostare la questione sul piano che secondo me è fondativo, in questa esibizione di forza e di uomini forti, una cosa che una volta di più è diventata evidente è che c'è sicuramente, non dico un uomo debole, ma un soggetto debole, che è l'Europa, l'Europa che non c'è. Cioè, da questo punto di vista, se c'era un elemento che unificava la politica globale di Putin e quella di Trump, era di fatto la puntare sull'irrilevanza, accentuare l'irrilevanza, far fare all'Europa il vaso di coccio. Oggi certo, mi pare lo sia ancora di più. Sì, qualcuno si illudeva fosse Putin il rappresentante di una versione dell'Europa, ma non è lui. I forti non ce ne sono, cioè se non è chiaro chi sia più forte tra i due, lo rileveremo presto. Sappiamo che comunque noi di uomini forti non ne abbiamo, non dico che sia peggio, ma sicuramente noi siamo un soggetto debole. È che purtroppo non è un incontro di wrestling, in realtà no, poi alla fine no, qualcosa accadrà anche a noi. Ti ringrazio, Ilvo Diamanti, torna grazie, pure ai tuoi impegni te, Luca, e noi ci fermiamo soltanto un istante e riprendiamo, già ci sono tanti ascoltatori in attesa, chiamerò Stefano, chiamerò Maurizio, chiamerò tutti gli altri, mi diranno esattamente, anche illuminati da quella che è stata la riflessione di Ilvo Diamanti, chi scelgono loro, Putin o Trump, ma anche soltanto magari, che ne so, perché ti piacciono i capelli o perché l'altro ha un bel fisico, quello che volete voi. L'importante è che facciate una scelta, perché da oggi la scelta è improrogabile. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. Stamattina voglio definire le ragioni profonde che determinano la scelta dell'uomo furtismo negli italiani. Subito scrivono e telefonano le indignate. Nicoletti, perché? Ancora questo condizionamento mentale. Ghibellini e Guelfi. Ma pensate, no, in questo momento non è Ghibellini e Guelfi, è cani contro gatti, vampiri contro licantropi. Uno contrapposto all'altro. Se vuole può essere migliore. La odio, mi crea fastidiosa ripugnanza alla banalità. Si prenda un giorno di vacanza. Lì lo prenderei molto volentieri, ma devo portare la pagnottella ai miei bambini che stanno lì con le boccucce aperte come passerotti e dicono, hai portato pane, papà. Scelgo Trump, fra pochi anni comunque avrà le elezioni, Putin non lo sa. Poi Trump a cena con i cinesi, lancia missili in Siria, non vi fa pensare, ecco che parte il complotto. Secondo me lui la Siria non gli interessa, vuol far vedere ai cinesi che è pronto a lanciare i missili sulla Corea del Nord, ecco, bravissimo. Poi caro Nicoletti, non capisci nulla, in realtà Trump sta facendo un favore a Putin, sono d'accordo fra di loro, hai una mentalità molto retro, ma mi fermo ai fatti. Putin è incazzato, ha detto che non gli andava bene che gli lanciassero i missili dove stanno anche i suoi aerei, poi fate quello che volete. Daniele, buongiorno, chi sceglie? Sì, buongiorno. E ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto il professor Diamanti e mi trovo d'accordo su molti punti. Nonostante questo sono molto inquietato, perché le elezioni del passato ci hanno fatto vedere che spesso la scelta dell'uomo forte, come è successo qui in Italia o nella Germania, ha portato ad avere dei regimi totalitaristi. Beh, tanto per adesso noi non abbiamo un uomo forte, quindi facciamo che è un punto di riferimento ideale. Lei è d'accordo che questa mattina, sarò anche retro e sarò superficiale, però d'impatto ci troviamo di fronte a una scelta che assomiglia a quelle del vecchio tempo della guerra fredda. Assolutamente. E lei chi sceglierebbe le due, dovendo scegliere? È una scelta molto ardua. Però va fatta. Oggi non si può salvare capre cavoli, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, non si può fare Daniel assolutamente... Bonfascio. Così a freddo le dico Trump. Trump, perché? Un motivo, perché sceglie Trump? Beh, Trump proprio perché comunque gli Stati Uniti con l'Italia, anzi sarebbe meglio dire l'Italia con gli Stati Uniti, hanno un legame che è imprescrivibile. Senza gli Stati Uniti... Sì, ma non è che ci ha avvertito, partono i missili al Mediterraneo, occhio a tutti, a fatti li ha lanciati e nessuno sapeva, stamattina, cioè stanotte anzi. Infatti è questa la forza politica degli Stati Uniti e di qualsiasi presidente americano. Gentiloni sta lì con la papalina e i calzettoni, gli hanno detto guarda ha lanciato i missili, non è che gli aveva detto prima, quindi... Prima l'ha manciati e poi oggi lo leggiamo sui giornali. Comunque va bene, è chiaro. Aldo, andiamo Aldo. Aldo chi sceglie? Eccomi, buongiorno a lei, sì. Complimenti per la trasmissione, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. Questa scelta ovviamente è molto difficile. È chiaro che quelle immagini fanno impressione e d'impulso così le avrebbe voglia di fare quello che ha fatto Trump. Sì, Io però mi soffermerei su un particolare. Per correttezza va detto, non è che ancora osservatori internazionali hanno determinato se veramente l'attacco con il gas è stato fatto. Ma infatti è quello che mi chiedevo io, dico, Trump è un impulsivo. Certo. Allora, con questa sua impulsività rischia davvero di generare un qualcosa. Però piace per lanciatore quello. Di missili ce n'è un altro in Corea del Nord, quello sì che è un pazzo lanciatore di missili. Se adesso qui ce n'è un altro e si chiama Trump, questo qui, l'uomo che dovrebbe con oculatezza, non dico dominare, ma governare un po' gli scenari mondiali. E quindi lei soluzione, sceglie Putin. Io no, sono molto in difficoltà, però mi chiedo una cosa, una domanda di fondo, l'ONU. In tutto questo dov'è? Perché l'America? Perché non va a bombardare l'altro pazzo coreano? Sì, che è la terza generazione. Ma vedi, lei già fa uno scenario. Questa mattina la domanda è un'altra. Trump o Putin? Poi gli scenari, lei deve fare una scelta questa mattina, perché non può più dire vanno bene tutti e due e mediare. Chi sceglierebbe? Per le ragioni che ha detto il primo... ascoltatore Trump che ha intervistato, scelgo Trump anch'io. Pensa che ancora solo per quello ci sia una simpatia atlantica che in qualche maniera ci potrebbe salvare la pelle. Stefano, andiamo. Stefano chi sceglie? Buongiorno. Io sono abbastanza inciso sul fatto, perché comunque a me mi sembra che siano due facce della stessa medaglia, e l'avvicinamento, diciamo, presunto sempre di Trump a Putin pre-elezioni, prefiguri una cosa del genere. Ah, quindi è tutto magna magna fra di loro, sono d'accordo? No, magna magna no, ma sicuramente magari non potendo punire direttamente Assad ha dato strada libera a Trump. Sembra una cosa del genere. Ah, ha detto, guarda, mandami, in effetti diciamo il bersaglio era stato evacuato, perché mandare 59 missili, si parla di 5 vittime, cioè un missile per vittima mi sembra uno sforzo esagerato se quello deve essere lo scopo. In realtà erano stati avvertiti, erano stati tolti tutti gli obiettivi russi, quindi è stato un grande botto, con grande rispetto per comunque per poche o tante che siano, per delle vittime umane che ci sono state, però in realtà sembra quasi un fuoco artificiale, una bomba carta per fare un po' di casino, potrebbe essere questo. Però chi sceglie dei due? In questo momento sceglierei Trump, perché con una mossa azzardata ma vincente ha riportato gli Stati Uniti nello spessore medio orientale. Penso che stamattina quando sta lì a prendersi la ciotolina, la ciotolina insieme al leader cinese, tutto tronfio, lui contento, e come dice stanotte è andata bene, 59 missili, quello che fa, che rilancia, è solo il zitto deve stare, un grande colpo di scena mediatico. Maurizio. Sì, buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Con chi sta lei? Scelga. Io sto con Putin sempre. Finora abbiamo avuto 4 Trump e un Putin, quindi sta rilanciando. Io faccio anche il sondaggio. Putin perché? Dica perché. Putin perché lui è uguale a Trump sotto un certo punto di vista. Quando decise di riprendere... Fisicamente è messo molto meglio, scusi. Capellino meglio, quando decise di riprendersi la Crimea l'ha fatto, ha deciso e l'ha fatto e l'ha ripresa. Quindi lui le palle ce l'ha davvero, non è una botta mediatica, è vero? Voglio dire, quello che ci manca anche qui in Italia, una persona con le palle veramente. Quando c'era lui ce l'aveva, adesso non c'è più. Oggi non ce l'è. Lo so, ma perché ha bisogno di qualcuno con le palle sopra la testa? E faccia capire, cioè le palle di un altro sulla testa fanno ombra, danno fastidio. Io almeno sono di quest'idea. C'è bisogno di una persona che faccia un bel pulito. Su diversi settori, non le dico quali. Si rivolga a un'agenzia, ce ne sono tante, di pulizie, di pulisce casa. Ci vorrebbe una persona autoritaria come Putin. Ah beh, ognuno c'è. Saprebbe come fare. Va bene, Putin. Lei gli ho dato più spazio perché finora Putin è in svantaggio rispetto a Trump. Sentiamo Luca. Luca, chi sceglie? Eccoci Gianluca. Chi sceglierebbe? Io mi verrebbe subito da farti un'assonanza cinematografica, voglio dire, la risposta viene di conseguenza. Sì, Batman contro Superman, qualcosa del genere? No, assolutamente. Freddy Krueger contro Venerdì 13, non so. No, mi viene subito da dirti, per far sorridere tutti i tuoi radioascoltatori, ma Trump è il prolungamento moderno del grande bluff con Robert Redford e Paul Newman, ecco, questi che armano questo studio, questa agenzia ippica, ma in realtà poi era il grande bluff, lui si vede nel ciuffo, si vede nella movenza. Sì, però il bluff si scopre quando uno va a vedere le carte, ancora nessuno è andato a vederle, finora... Le fattezze, sì, poi Putin, Ian Cliff, i Magnifici Sette, non l'ho mai visto sorridere una volta. Non ho mai visto sorridere questo personaggio, ma quando sfidava a duello era la cioè Yul Brynner, capito? Yul Brynner, scusami, Yul Brynner. Ivan Cliff è un pugno di dollari. Sei sul pezzo, e la pistola più veloce del duello. Non sorrideva, ma il risultato lo portava sempre. Quindi lei è Putin, un altro Putin? Sì, 10 al 10. Putin, va bene. Demetrio. Io sono per Putin. Sta risalendo, è Putin. Avanti, perché? Io sono per Putin perché sta cercando, a mio avviso, per quello che io capisco di politica internazionale, di non far finire la Siria come già finito l'Iraq e come già finita la Libia. Questi esempi penso che ce li abbiamo presente. Dottore Nicoletti, ma le prove che stanno portando americani, turchi e israeliani non le ricordano quelli che hanno portato gli inglesi, i francesi, gli americani su Saddam, sulle armi chimiche di Saddam, sì. Non le viene questo sospetto? Guarda, ne parleranno a esaurimento da qui a stasera molte persone più autorevoli di me. Sì, è vero, sono state fatte guerre anche per molto meno, diciamo, guerre sanguinose, pensi in Kosovo, pensi i bombardamenti che abbiamo fatto con le cluster bomber, erano tutti d'accordo, partivano dalle nostre basi italiane, ma per veramente molto meno. Quindi non mi stupisce in questo momento quello, ma lei per chi sta? Putin, allora, mi sembra, no? Sì, Putin apertamente, mi sembra una persona ragionevole, che non neanche si intromette tanto nelle cose degli altri. Perfetto, è discreto, piace anche come aspetto fisico perché non accenna nulla al sorriso, quindi va bene. Mario, con chi sta? Mario, pronto? Poi ci fermiamo un attimo perché è appassionante. Ecco. Mario, con chi sta lei? Pronto, buongiorno. Chi sceglie? Ma io scelgo assolutamente Putin, per un motivo: la legalità è l'unico che ad oggi è stato chiamato da un capo di Stato riconosciuto e di un paese riconosciuto alle Nazioni Unite, e quindi è l'unico che in ogni caso ha diritto di stare lì. Allora, gli Putin, altri sono tutti intromissioni. Sì, ma non occorre che spiegate, può essere anche semplicemente una simpatia. Però a questo momento siamo parità, 4 Putin e 4 Trump. Vediamo chi riusciamo. Maurizio? Pronto, Nicoletti? Sì, Maurizio. Trump o Putin? Qua. Pronto Nicoletti? Sì, pronto? Sì, l'ascolto. Buongiorno, allora io sto per Putin perché antropologicamente è superiore a Trump. Quindi è una scelta lombrosiana, ma poi mi perdoni Nicoletti, dai, questo ha affrontato l'embargo, l'isolazionismo, ha affrontato muso aperto da altri presidenti come Obama ad esempio, cioè un uomo scafato, strutturato. Ma quest'altro, ma chi cavolo è? Allora, scusi, bisogna... Fermo un attimo. Dunque, in questo momento lei porta Putin in vantaggio. Io sintetizzo il punto di vista degli ascoltatori. Putin in realtà sembra essere, nella percezione dei nostri ascoltatori, un vero uomo forte, una persona che veramente in sé ha dato dimostrazione di forza. Trump è molto più legato a un aspetto mediatico, ma chi ha votato per lui vota in nome di una presunta, immaginaria, nostalgica simpatia, punto di comunanza fra quello che una volta era l'Europa e l'America. Ancora memori del vecchio piano Marshall, pensano che Trump ancora guardi l'Italia come un paese da proteggere, da aiutare. Questa è la sintesi, ci sentiamo tra un istante. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, un entusiasmante sondaggio fra i nostri ascoltatori, campione rappresentativo del sentire italiano, ormai provato, testato, visto, anticipatore di linee di tendenza, poi certificate da meccanismi di sondaggio d'opinione molto più raffinati del mio. Stiamo vedendo se gli italiani questa mattina sono svegliati, che avevano in mente un'idea vaga, bifronte di uomo forte, Putin e Trump, entrambi rappresentati a cavallo, a torso nudo, come due eroi medievali. In realtà oggi non fare una scelta, siamo tornati al vecchio sano opposizione di blocchi, siamo tornati alla guerra fredda, fredda mica tanto perché volano missili, insomma questo è il primo esito alla guerra fredda. Noi abbiamo pensato per anni o per decenni, partiranno le bombe, lanceranno i missili russi, lanceranno i missili americani, hanno sempre minacciato, hanno sempre tirato fuori le rampe, hanno sempre fatto vedere c'era il missile più lungo, ma non l'hanno mai lanciato nessuno. Questa è la prima volta che nella contrapposizione Russia-America uno lancia un missile verso l'altro, che a tutti gli effetti in Siria c'era Putin con tutte le sue truppe schierate, come lanciarlo addosso a lui. Vi sintetizzo il primo risultato, vede in vantaggio, leggero vantaggio Putin su Trump, leggo qualche sms. Putin tutta la vita, anche perché è maestro di judo e karate, parla 5 lingue, appassionato di musica classica, laureato in legge, dice Andrea. Dice un altro ascoltatore, certo fisicamente sta meglio Putin, come dittatura li stimo pure, Putin è un altro che ama le guerre. Poi finalmente Tex Willer Trump fa parlare le sue Colt 45 fumanti. Beh, Colt 45 non sono Colt 45, sono 59 missili che quando arrivano fanno molto più male delle vecchie Colt di Tex Willer. Nicoletti chiama Giulietto Chiesa, mi sembra sia già sufficientemente prodotto nei programmi di questa rete, quindi andiamo avanti, noi facciamo sondaggi, non sentiamo opinioni. Renzo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, brevemente, non amo nessuno dei due. Trump è un impulsivo, però preferisco Trump perché non è solo, è controllato da un congresso e da un sistema democratico. Ecco, Putin, diciamo, al di là di tutto vuole. Strilla, urla, però c'è, diciamo che anche questa scelta dei missili, adesso non pensiamo che Trump la sera si mette sul comodino, si mette la papalina, saluta la moglie, saluta, dà una carezza alla moglie, poi dice non riesco a dormire stanotte, non riesco a dormire, che faccio stanotte? Si sveglia, apre la valigetta, pigia il pulsante e partono i missili. Diciamo che questa mattina i maggiori quotidiani italiani già ne parlavano, La Stampa lo dava per certo, era questione di minuti secondo me, quindi era già nell'area, stanno partendo i missili, e questa decisione non è che l'ha presa Trump da sola, l'ha presa tutta una serie di cervelli che pensano che era la cosa giusta da fare. Manuel, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, anch'io la penso come Renzo, tra la cacca e la fame mangi la cacca, preferisco Trump, quantomeno dietro un sistema. E poi comunque è più brutto, a me sono simpatici quelli un po' più brutti di Putin. Sta risalendo Putin decisamente Trump, su Putin. Putin è troppo amato, è troppo bello, ha talmente tanta gente che lo ama che gli fanno fuori le giornaliste, avvelenano le polpette col polonio. Diciamo, gli dà ancora l'idea di qualcosa, sì, che assomiglia alla democrazia, una scelta su Trump. Vagamente, magari pilotata, quanto vuole. Però almeno l'illusione di un voto ce l'ho ancora. Va da bene. Quella parte. Benissimo, mi sembra chiaro. Ludovico, si sta spostando l'asse però. Ludovico. Sì, buongiorno. Premesso che Putin secondo me verrà ricordato come uno dei più grandi statisti della sua epoca e non solo, quello di che è successo stanotte in realtà deve essere secondo me rivisto, perché i danni provocati all'aviazione siriana sono nulli e il motivo è molto semplice, è stato preannunciato ore prima l'attacco. Sì, l'abbiamo già detto questo. Questo praticamente è accaduto quello che Obama faceva con ISIS, cioè faceva finta di bombardarlo, ma l'obiettivo che perseguiva Trump secondo me è questo, cioè demolire definitivamente, seppellire definitivamente Russia Gate, dare un segnale preciso alla Nord Corea e mettere finalmente all'angolo i veri guerrafondai sanguinari in America come il senatore McCain. Questo è l'obiettivo che sta. Quindi diciamo lanciare raggiunto. 59 missili è una scelta moderata per dimostrare che in fondo esiste una maniera di comporre anche le dispute internazionali in maniera moderata. Quindi Trump anche lei, vabbè, ognuno ha il suo punto di vista, è rispettabilissimo. Ludovico ha parlato. Alberto? Sì, Alberto lei. Sì, però non si può stare a metà. Buongiorno Nicoletti. O uno o l'altro. Sono da Roma, sono Alberto. Volevo uno, allora, o uno o l'altro. Tutte le notizie che di cui parlerò sono state acquisite sentendo proprio Radio 24, che ringrazio. Ma chi ha scelto lei? Chi ha scelto sentendo Radio 24? Lo sento pianissimo. Chi ha scelto fra i due? Volevo chi solo scelto? Dire una cosa. Allora, io amo, no, non è che amo. Alberto, mi deve fare il nome, o uno o l'altro. No, perché la mia posizione è proprio quella, è motivata, io sto con tutti e due. E non perché si può. Secondo me, Nicoletti, combattono un potere terzo che è quello dei democratici. Tutti e due insieme, quindi non c'è contrapposizione. Vabbè, però annullo il voto, è scheda nulla, perché è uno o l'altro. Oggi è maggioritario secco, non è che si può scegliere. O uno o l'altro. Giuseppe. Buongiorno, sono Giuseppe Udine. Senta, se io la guardo sotto il profilo dei valori di civiltà, io devo automaticamente eliminare Trump se è responsabile di questo attacco. E quindi perché vota abbiamo Putin. Contro i valori della civiltà nata con i sumeri 6.000 anni fa e siamo arrivati all'oggi alla società legale. Okay. Qui non c'è nulla di legale, vince il più forte. Allora, e Putin. Quindi io non accetterò Putin. Mai di essere schiacciato come un verme dal più forte. Vabbè, allora, perché Putin. Oggi è capitato ai siriani, domani capita agli italiani, a me stesso e a lei stesso, signor Nicoletti, e tutti quelli che lei sta chiedendo. Non lo metto in dubbio. No? Sì, può essere. Mi tocco le palle, però può essere, che devo dire. Tutto, nessuno ha in mano il proprio destino. Allora, finora Putin 6 e 5, 6 e 7, e 7 Trump. Vediamo un po'. L'ultimo presidente è quello che. Antonio, decide lei. Putin. Buongiorno. Niente, con una pistola puntata alla tempia dico Trump. A New York si può scendere in strada a manifestare. Allora vince Trump, niente, per un strettissimo numero, per un punto, vince Trump. Gli italiani hanno fatto la scelta, scelgono Trump. Dovendo scegliere fra Trump e Putin, in questo momento l'uomo forte che loro tutto sommato vorrebbero, anche se con un po' di riserve, scelgono Trump. L'Italia ha scelto. Alla prossima.